Jo il fuon dalla val dorma uno sulla prada da primavera dorma uno el dorma profond e si assen bricklein tutles stüves ella cumba tullini mi ma zals pacer scopas es fras dorma bain durmilium dorma bain durmilium in una nulia müda in una nulia müda dorma bain durmilium dorma bain durmilium in una nulia müda in una nulia müda nona fa stimmt babba va birra e mamma squassa i ceu ci sa c'ha dell'at recugnuoscerà Dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Io il fond dalla val, dorma uno. La prada da primavera dorma uno i succe sbaderla e la sformia sbaiva nord si è sfuori scotchness e la combattu l'inimi ma zals bacers copas esfras Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Nona fa stimps, babba va birra, e mamma squassa i ceu. Ci sa, c'ha della recugnuoscerà. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una müda, in una nulia müda. Dorma bain durmilium, dorma bain durmilium, in una nulia müda, in una nulia müda.